Storie italiane. Robin Hood. Molto, molto tempo fa, in Nottingham, in Inghilterra, c'era un re di nome Riccardo. Re Riccardo era un re saggio e generoso. I cittadini di Nottingham amavano il loro re. Il regno era ricco e prosperoso. Ma un giorno, mentre Riccardo stava viaggiando verso un'altra città, la sua nave fu attaccata in mare. Passarono giorni, mesi, ma non vi fu alcuna notizia del re o della sua nave. I cittadini piansero per il loro amato re. In assenza di re Riccardo, suo fratello minore, re Giovanni, fu fatto sedere al trono. Ma il re Giovanni non assomigliava a suo fratello maggiore. Aumentò le tasse e prese tutti i soldi dai poveri. La città iniziò a diventare sempre più povera, giorno dopo giorno. Nottingham aveva perso la speranza. Ma, come si dice, con ogni ingiustizia nasce un eroe. Questa è la storia di un uomo, Robin Hood. Robin Hood era un ragazzino che viveva nella foresta di Sherwood, vicino a Nottingham. Aveva un gruppo di amici che si faceva chiamare Merry Men. Le ingiustizie commesse da Re Giovanni spinsero Robin Hood a prendersi cura della sua gente. Aveva l'abitudine di derubare le carrozze reali. Lui e i suoi uomini distribuivano poi quanto rubato ai poveri. Ogni volta che una carrozza reale attraversava la foresta, Robin e i suoi Merry Men apparivano dal nulla. Oh, spero che Robin Hood sia molto, molto assonnato oggi. Spero che non mi senta passare dalla foresta. Shh, Tony, perché stai facendo tanto rumore? Rallenta. Ma signore, come posso chiedere ai cavalli di camminare silenziosamente? Robin Hood può sentire anche i nostri passi. Stiamo camminando sulla terra, signore. Non si può fare in modo silenzioso. Oh, zitto! Ma il ministro aveva ragione. Robin e i suoi Merry Men potevano sentire tutto. Infatti, improvvisamente... Oh no, al ladro, al ladro! Io non sono un ladro, tu lo sei. Questo è il denaro della povera gente, non il tuo. Vallo a dire al tuo re, la gente di Sherwood non è sola. Andiamo, muoviamoci. Grazie a Dio c'è Robin Hood, Jasmine! Dobbiamo a lui le nostre vite! Robin Hood? Sceriffo! Vuoi tenerti il tuo lavoro o no? L'ha fatto di nuovo! Tutti i nostri soldi e loro sono spariti! Quel delinquente lo ha fatto di nuovo! Voglio che lo arrestiate adesso! Noi abbiamo provato, Vostra Altezza, più volte... Ma loro semplicemente scompaiono. Stai dicendo che non puoi farlo allora? No, lo farò. Arresterò Robin Hood. Lui è il mio nemico. Datemi un'altra possibilità, Vostra Altezza. Fai tutto il necessario. Non mi interessa. Voglio che lo catturi. Lo sceriffo era furioso. Decise così di ingannare Robin Hood. Lo sceriffo sapeva che c'era un modo solo per far venire Robin a palazzo. L'unico modo era Lady Marian. Lady Marian era la nipote di Re Riccardo. Era una donna bella e forte. Robin vide una volta Lady Marian mentre attraversava la foresta di Sherwood in carrozza. Robin attaccò la carrozza, dando per scontato che vi fosse il tesoro del re. Ma non appena vide Lady Marian, non poté credere ai suoi occhi. Lasciò cadere la spada e si inginocchiò di fronte alla sua incredibile bellezza. Io... Chi sei? Fu amore a prima vista anche per Marian. Io sono Miriam. Tu sei Robin Hood? Mi dichiaro colpevole. Robin, hai sentito? Lo sceriffo sta organizzando una gara di tiro con l'arco. Vincitore prenderà in sposa Lady Marian. Quello sceriffo è così stupido! Questa è ovviamente una trappola. Tutti sanno che Robin Hood è l'arciere migliore. Non ci andremo, giusto Robin? Ma Robin non stava ascoltando Tuck. Hai detto Lady Marian, Little John? Il miglior arciere prenderà in sposa la bella Lady Marian. No, Robin, ti arresteranno se andiamo al castello. Ma come ci riconosceranno? Io mi travestirò. Oh, ragazzo, aspetta un minuto. Non ti lascerò andare da solo. Mi travestirò da duca di Chutney per avvicinarmi al re Giovanni. Come deciso, andarono entrambi alle porte del castello. Nessuno li riconobbe, eccetto... Tu sei Robin Hood! Ma perché sta bisbigliando, signore? Aspetta, sei l'assistente di re Giovanni? Un momento, come ti chiami? Oh sì, Sir Beast! Ridi quanto vuoi! Vi farò arrestare entrambi immediatamente! Guardie! Guardie! Ma Sir Beast venne infilato nella botte di birra. Ora non sei solo Sir Beast. Sei stato promosso a Sir Beast Birra. Capito, Robin? Beast e birra. Shh! Piuttosto, John, andiamo! Oh, aspettate! Guardi! Ben presto arrivò il turno di Robin di usare il suo arco. Sparò tre frecce una dopo l'altra e la folla ne rimase scioccata. Tutte e tre le frecce colpirono il centro. La folla esultò per questo incredibile arciere. Robin si tolse il cappuccio e iniziò a cercare la sua Lady Marian. Ma proprio allora... Arrestatelo! Quello è Robin Hood! Alla fine ti ho preso! Ma Robin non aveva paura. Conosceva i suoi Merryman molto bene. Non così in fretta, sceriffo. Lascia andare Robin, altrimenti di addio al tuo amato re Giovanni. No! Lascialo andare! Lascialo andare! Sceriffo, non voglio morire! I soldati rilasciarono immediatamente Robin. Robin e Little John si dirissero verso il cancello. Mentre uscivano, Robin vide Lady Marian. Marian, tornerò per te! Aspettami! Sempre, Robin! Sempre! Una volta nella foresta, i Merryman e Robin iniziarono a escogitare un piano per prendere Lady Marian. Proprio allora, un ragazzo del villaggio si precipitò da Robin. Robin, stanno arrestando mio padre! Cosa? Dai, andiamo! Robin e i suoi Merryman andarono verso il villaggio e videro che gli abitanti del villaggio stavano lottando con i soldati. Sono gli ordini del re! Ha triplicato le tue tasse! Se non potete pagare, dobbiamo arrestarvi! Andate a ringraziare il vostro caro Robin Hood! Ha fatto arrabbiare il re e voi dovete pagare! Robin Hood è un bravo uomo! Si prende cura di noi! A differenza del tuo re egoista, è un uomo crudele! Come ti permetti? Arrestatelo! No! Aspettate! Sono io quello che state cercando! Lasciate queste persone! Dai, Robin! Non vogliamo che tu vada, scappa! No, lasciate che mi arrestino. Robin, ma cosa stai facendo? Io rubo per una buona causa, ma comunque rubo. Non voglio che i bambini del villaggio seguano il mio esempio. Dovete stare tutti insieme e combattere. Questo è l'unico modo. Addio, miei uomini, ci vediamo presto. Gli abitanti del villaggio erano tristi per il fatto che il loro eroe se ne stesse andando, ma i Merryman non avevano intenzione di abbandonare il loro capo. Seguirono la carrozza dall'interno delle montagne in modo che i soldati non li vedessero. Oh, il potente Robin Hood! Il protettore dei poveri! Colui che dà senza senso! Sei un ladro, un furfante, un matto! E tu cosa sei, altezza? Tu rubi ai poveri! Dove vanno le tasse? Cosa ci fa la tua corte? Solo perché ti siedi su quel trono non significa che puoi rubare i soldi della povera gente. Io non sono un ladro. I soldi che prendo appartengono alla mia gente. Restituisco loro ciò che è di loro legittima proprietà. Lascia che Nostra Altezza Re Riccardo torni. Saprà lui cosa fare con te. Silenzio! Butta Portatelo nelle segrete! La città di Nottingham era ora in pericolo. Il loro salvatore era stato catturato, ma i Merryman lasceranno vincere Re Giovanni? Tuck, cosa fai? Shh! A fuoco, correte! Mettetevi in salvo! Robin, esci in fretta! Il castello è in fiamme! Perché vuoi aiutarmi? Neanche a me piace Re Giovanni. Mi sbagliavo sul suo conto. Andiamo! Robin non si fidava dello sceriffo, ma doveva fuggire dal castello. Seguì lo sceriffo sul tetto. E adesso? Ora? Ho vinto! Dove andrai ora, Robin? L'acqua è profonda e ci sono arcieri ovunque. Sapevo che non dovevo fidarmi, sceriffo. Addio! Che stupido! Non sopravviverà mai a questo! Ma Robin Hood riuscì a sopravvivere, nuotò nei canali e arrivò nella foresta. Spero che i miei uomini stiano bene. Ma al castello era successo qualcosa di inaspettato. Re Riccardo era tornato nel suo regno. Dopo che l'incendio fu spento, i cittadini di Nottingham si erano radunati nel castello per lamentarsi di Re Giovanni e dello sceriffo. Mi scuso con il mio popolo. Questo non sarà tollerato. Mi hai deluso, Giovanni. Re Giovanni, Sir Beast e lo sceriffo saranno immediatamente arrestati. No, no, Vostra Altezza, per favore! Zitto! C'è una ragione per cui il tuo nome è Beast! Vi ordino di liberare i Merryman e ritirare tutte le accuse fatte a Robin Hood. In effetti, un uomo coraggioso come lui dovrebbe essere ricompensato. Portatelo al castello con onore! Sì! Re Riccardo capì immediatamente che Lady Mariam era innamorata di Robin Hood e che desiderava sposarlo. A Re Riccardo piaceva Robin Hood. Era più felice di avere sua nipote sposata con lui piuttosto che con un nobile. I cittadini di Nottingham gioirono perché il loro eroe venne ricompensato. Robin Hood e Lady Mariam andarono a vivere nella foresta di Sher. Erano felici delle loro vite semplici. Ballavano e cantavano con la gente di Nottingham. Robin Hood e i Merryman non rubarono mai più.